Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. La mail? Un abuso al giorno chiocciola radio24.it. Il mio blog si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sulla home page del Sole 24 Ore. Alcuni giorni fa, se ci avete seguito, abbiamo affrontato il tema dell'abusivismo nelle spiagge, nella difficoltà di accesso alle spiagge e anche della pulizia o meno dei nostri mari e delle nostre coste, un tema che torna d'attualità in questi giorni perché siamo in piena estate e leggendo i giornali locali, dalle Alpi alle Piramidi, dal Mazzanarre al Reno, oserei dire non c'è soluzione di continuità nel leggere notizie in cui si trovano maxilidi abusivi, i gestori protestano, i comuni insorgono, insomma è una situazione abbastanza caotica. Oggi abbiamo deciso di parlarne nel napoletano per quello che riguarda la zona di Napoli e dintorni, partendo da una notizia che abbiamo letto sul Mattino di Napoli, appunto, in cui si diceva: a Giuliano chiusi i maxilidi perché i carabinieri hanno decretato che sono abusivi. È ovviamente scoppiata l'ira di Dio e circa 30.000 bagnanti sarebbero rimasti o saranno privi di spiagge. I titolari sono insorti, noi l'abbiamo anche cercati, abbiamo cercato la famiglia di Francia, che è la famiglia che ha, diciamo, più antica dimestichezza con questi lidi, ma prima si è detta disponibile a partecipare, poi non ha più partecipato e in maniera anche sgarbata, devo dire, ha rinunciato poi alla partecipazione in trasmissione. Ma noi andiamo avanti ugualmente ed abbiamo nostro gradito ospite, l'ingegner Gennaro Di Bonito, che è il presidente del Consorzio Turistico Mediterraneo, una voce più che rappresentativa per quanto riguarda i gestori dei lidi, proprio per capire con lui se e a quale punto è arrivata la polemica su questi maxilidi abusivi. Buongiorno ingegner Di Bonito. Buongiorno. Allora, a che punto è la querela? Allora, io innanzitutto vorrei precisare che la denominazione di maxilidi abusivi è assolutamente impropria. Sì, non l'ho fatta io, l'ho fatta il Mattino di Napoli, io ho letto soltanto. La rettifichiamo subito, allora è una denominazione assolutamente impropria perché lo stesso comune di Giuliano, a valle dei sigilli del Comando dei Carabinieri e della Polizia Municipale, ha notificato ai balneari un provvedimento nel quale afferma la validità e la vigenza delle concessioni demaniali per il rinnovo automatico ai sensi dell'articolo 10 della legge 88-2001. Sarebbe bastato fare tutto questo qualche giorno prima, ovvero quando noi con molta insistenza e con molta forza l'abbiamo chiesto al sindaco di Giuliano e al prefetto di Napoli, inviando un comunicato nel quale chiedevamo un incontro per affrontare tutte le problematiche del distale e non solo questa. Se si fosse fatto tutto questo prima, non sarebbe accaduto quello che è accaduto. Tanto è vero che quando i carabinieri hanno sequestrato con i vigili urbani, il GIP destinatario del provvedimento di sequestro preventivo non lo ha convalidato, appunto perché ha riconosciuto efficaci e valide le concessioni demaniali. Quindi i lidi sono aperti oggi, i bagnanti possono andare? Quindi alcuni di questi lidi sequestrati sono stati già aperti la settimana scorsa e altri sono ancora chiusi, ma la documentazione è al vaglio del GIP, del giudice per le indagini preliminari. Ecco, quindi vuol dire che non tutti sono stati riaperti, non è molto probabilmente assumerà lo stesso atteggiamento. Ecco, però intanto diciamo che per alcuni sono state tolte le transenne, metaforicamente parlando, per altri invece ancora ci sono, quindi qualche problema effettivamente ci deve essere, saranno incomprensioni, saranno diverse interpretazioni di legge. E allora ci spieghi perché si arriva ogni anno in varie parti d'Italia, per carità, mica soltanto in Campania, ogni anno si arriva a questi lunghi contenziosi tra comuni, allora, e gestori? Diciamo subito che Giuliano è una realtà particolare, è una realtà, diciamo, tutta a sé, perché i gestori dei lidi hanno praticamente a monte della spiaggia o la proprietà privata o suoli concessi in fitto dalla Regione Campania. E poi hanno la concessione demaniale per l'occupazione della spiaggia, dell'arenile vero e proprio. Per quanto riguarda le zone di proprietà privata o di concessione regionale, pendono delle istanze di condono o vi sono delle concessioni edilizie per i manufatti che esistono. Per cui chi non ha fatto abusi che non sono autorizzati, cioè per chi ha realizzato immobili o manufatti abusivi in quanto non aventi né concessione edilizia né condono edilizio presentato, è chiaro che in questo caso si è in una posizione di torto ed è una posizione, diciamo, dalla quale non si può prescindere. Insomma, è una situazione abbastanza complessa. Per quanto riguarda la spiaggia, il comune di Giugliano non ha approvato il piano di utilizzazione arenili, non ha il piano spiagge, e quindi le concessioni demaniali rilasciate negli anni addietro per effetto dell'articolo 10 della legge 88-2001 si sono rinnovate automaticamente. Benissimo, allora io ringrazio la voce rappresentativa delle aziende balneari. Ricordiamo che il consorzio che rappresenta l'ingegner Di Bonito dà lavoro a circa 1500 lavoratori, e ora voltiamo pagina e ascoltiamo la replica del Comune di Giugliano. Ed abbiamo il piacere di avere con noi l'avvocato Giovanni Pianese, che è il sindaco di Giugliano, appunto. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Allora, innanzitutto le chiedo che cosa non la convince della difesa dei titolari delle concessioni rappresentate appunto dall'ingegner Gennaro Di Bonito. No, guardi, non è che non mi convince la difesa. Il signor Di Bonito fa un'esposizione di fatti che in linea generale rispecchiano la realtà. Cioè c'è una situazione che si trascina da tempo immemorabile, con un contenzioso anche attualmente pendendo presso la Cassazione per determinare la proprietà della fascia demaniale, se è demanio marittimo nazionale o è demanio regionale. Ma questo è ininfluente, perché l'allarme di questi giorni è dovuto in parte alla interpretazione della proroga della concessione demaniale ed in parte poi alla visita dei carabinieri con i vigili urbani tendenti a sopprimere o quantomeno a perseguire abusi edilizi. Ecco, ma io le vorrei chiedere questo, avvocato, visto che stiamo parlando di una zona, è vero sì, purtroppo devastata come tante altre zone in Italia dall'abusivismo edilizio, ma ecco, ma una zona comunque molto bella della Campania. È possibile che ogni anno si arriva sempre a questo punto, sempre in prossimità dell'estate, e non si affrontino invece prima i problemi? Un problema credo importante per realtà che vivono anche di mare come le vostre. Allora, lei non è una scusante. Questa amministrazione è in carica da 12 mesi. Il piano spiagge che il comune e l'amministrazione avrebbe potuto approvare in effetti dipende da un piano generale regionale, da un PUAD. Il PUAD, cioè questo programma utilizzazione aree demaniali regionali, giace in commissione e non è stato ancora licenziato. Da qui la norma della 88-2001 dell'articolo 10 che dice in mancanza di piano spiaggia, in mancanza di piano regionale, le concessioni demaniali si intendono automaticamente rinnovate per 3 anni. Ecco, in altre parole lei mi sta dicendo, vediamo e mi corregga se sbaglio, che in mancanza di un più ampio e generale piano regionale anche i comuni, Giugliano e non solo, perfetto, si trovano in difficoltà nel predisporre, perfetto, il proprio piano spiaggia. Perfetto. Nel frattempo le concessioni si intenderebbero automaticamente rinnovare per 3 anni, e quindi questo mette nelle condizioni agli operatori di poter salvare la stagione balneare di operare. Dopodiché in tutta la vicenda subentra un altro aspetto, perché lei deve tenere presente che c'è questo aspetto delle concessioni demaniali e così come abbiamo adesso convenuto si ritengono prorogate. Poi c'è l'aspetto dei manufatti edilizi, ecco, che più delle volte sono stati costruiti nel tempo abusivamente. Ecco, nel tempo, questa è una cosa che mi interessa moltissimo, avvocato. Nel tempo cosa vuol dire? Vuol dire che purtroppo ancora oggi continuano a esserci infrazioni e ferite al territorio di questo tipo? In linea molto minore c'è qualche ancora superfettazione oggetto di verifiche da parte degli organi di polizia giudiziaria. Per quelli invece che risalgono nel tempo e sono oggetto di condono, lo stesso non può essere esaminato, perché insistendo su area demaniale, le ripeto, il demanio marittimo nazionale ha ampliato la fascia di competenza lei sa che quando si richiede il condono necessita del nulla osta dell'ente proprietario. Certamente. Nulla osta dell'ente proprietario che in questo momento è sub iudice, cioè non si sa se l'ente proprietario è demanio marittimo nazionale o è demanio regionale. E quindi tante così le cose, però certo. Noi abbiamo ritenuto che il condono è giacente, non osta all'attività e quindi a seguire si potrebbero rilasciare le concessioni amministrative e la somministrazione di cibi e bevande. Ma devo dire, lei avvocato li ha spiegati benissimo e io la ringrazio per questo nel salutarla, ed è proprio uno strano paese il nostro in cui pur nel rispetto delle leggi accade quello che abbiamo sentito a Giuliano, dove tutti credono e probabilmente hanno una parte di verità in tasca, ma poi alla fine della fiera quello che accade è che nelle spiagge, invece che esserci tranquillità e relax per i bagnanti, c'è confusione e ce n'è anche per le amministrazioni locali. Ringrazio ancora i nostri ospiti, ringrazio in redazione Laura Fagin e in studio Pietro Lacorte, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.